Sono le 23 e 6 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Una volta lo chiamavano intervallo accademico. Capita nei live, può capitare che qualcosa non funzioni nella missione degli strumenti, ma siamo arrivati lo stesso. Noi l'abbiamo voluto. Esattamente, siamo poi arrivati in ritardo, ma ci siamo. 23.06, buonasera da Rock Wave, buonasera a Fabio Velo e alla sua band. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Grazie a Michele Toson, il mitico Michele che ha sistemato tutte le cose in regia, e ad Agostino che gli sta dando una mano. Abbiamo il concerto del lunedì, di solito non facciamo mai i concerti il lunedì, però Rock Wave si sta ampliando, allargando, e facciamo anche il live al lunedì. Perfetto. Fabio Velo, musicalmente dove sei nato? Allora, musicalmente nasco molti molti anni fa, ancora prima con le band emergenti patavine. Sì, underground. Sì, sì. Che underground era? Beh, e allora le mie prime canzoni le ho scritte che ero ancora al liceo, l'ultimo anno di liceo, pressappoco. E dopodiché appunto ho scelto di provare a vivere con la musica e mi sono iscritto alla facoltà di musicologia, e allora ho cominciato, diciamo, a così portare avanti un doppio percorso di studio e anche di pratica, di prova. Ho trovato tanti amici che conoscevo già da prima, che avevano la stessa passione, quindi queste band dell'underground padovano sono proprio formate, e questa è la loro grande bellezza, sono state formate da amici carissimi tuttora, che magari poi hanno scelto altri percorsi, ma che rimangono veramente amici. Tu hai scelto numerosi percorsi, quello musicale, quello di scrittore, anche sì, di critico musicale, sì, cioè di giornalista, sì, in toto praticamente. Sì, sì, appunto, in realtà sono tutte le varianti che ho scelto, sono frutto della stessa passione, però allo stesso tempo hanno anche una loro indipendenza, nel senso che in genere si dice che il critico è un musicista frustrato. Esatto, è vero, questo è vero. Non mi sarei mai permesso di dirlo a te, però è così. No, è così. No, ma in realtà io non ho mai vissuto i tentativi che ho fatto da critico in questo senso, anzi è una cosa che mi ha sempre dato molta, molta gioia, molto, molto onore anche il poter permettermi di spiegare la musica a me stesso in primis e poi agli altri. Poi una cosa interessante, tu hai fatto una tesi di laurea su Lucio. Lucio Battisti, sì, esatto. Sono una delle prime in Italia, forse la prima, o sbaglio? La prima, la prima. Facoltà di musicologia, che è l'unica facoltà esistente in Italia, è stata la prima. Dopodiché ci sono state altre tesi di musica appunto pop, popolare, popular music, ma la mia è stata veramente la prima. Io ieri sera, cioè scrivendo nella presentazione, ho scritto: la quadratura del cerchio sono questi sei pezzi che tu hai scritto assieme, sì, agli altri. Perché hai voluto fortissimamente incidere questi sei pezzi per aprire la finestra sul mondo musicale fatto da te stavolta? Per questi sei pezzi ho chiesto la mano di amici, familiari, un po' di tutto, conoscenti. Sì, perché ne ho veramente parecchi nel cassetto, parliamo di ben oltre. Abbastanza oltre il centinaio. Sì, oltre 50 mi pare aver letto. Sì, esatto. E quindi non sapevo proprio da che parte scegliere. Io in genere tendo a scegliere le ultime cose, perché come diceva anche George Harrison. Esatto. Che paragone. Lo diceva. Esatto, diceva che i musicisti si affezionano sempre alle ultime cose che scrivono. Quindi quando gli chiedono qual è il tuo brano preferito, è sempre l'ultimo che hanno scritto, quello prima. Fabio, presentiamo la, sì, band che questa sera. Allora, abbiamo alle tastiere, al computer programming e produzione artistica anche del disco, Claudio Banzato. Grazie, ciao. Mentre alle chitarre elettriche, acustiche, buonasera, creatività a 360 gradi, Giulio Batangelo. Buonasera a tutti. Endixiano, chitarra Endix. Endixiano. Però, appunto, giovanissimo, le telecamere lo inquadro, è giovanissimo, ragazzi, giovanissimo. È stato scelto apposta. Ok, allora, cosa dici? Apriamo questa finestra, musicalmente parlando, hai scelto un primo pezzo per iniziare, chiaramente. Sì. Sì, io direi che cominciamo con quello che è il primo pezzo del disco, Pensieri in libertà. Esatto, Pensieri in libertà. Traccia 4. Ok, da far sentire allora agli amici ascoltatori. Perfetto. Dal CD. Perfetto. Perfetto, allora scegliamo Tsunami, che è il prossimo singolo. Che è una pop song, posso una dire. Pop song, è l'episodio più leggero del disco, dell'EP, anche se diciamo ha dei suoi punti di forza nella musicalità. Certo. Adesso facciamo sentire, ok. Rock Wave. l'onda del rock. Mi spinge a controllare ogni tuo gesto, qualsiasi azione, persino l'immobilità totale. Sono qui rapito da questo amore, perché lasciarlo addormentare? Se non importa se ho uno tsunami nella testa, un'onda anomala nel cuore che spazza via, che pompa sangue in quella sola direzione. Sei tu la causa, questa vita è l'unica sua redenzione. Se cosa importa se con te è forse follia, con te che tu sia mia, con te solo con te rivendico il mio cuore. Hai fatto caso che le parole, quelle più belle, si scrivono da sole. Non c'è mano o istruzione che le possa accompagnare. Fuori dal cuore per farsi ascoltare con la medesima attenzione. Tu in questo vuoi, sì, tu ho uno tsunami nella testa, c'è un vento forte che mi fa tremare. Che fatica adesso alzarsi, dovere andare a lavorare. Sono qui rapito da questo amore, lasciatemi su un po' svegliare. Se poco importa se con te è forse pazzia, con te che tu sia mia, con te solo con te rivendico la mia vita, con te non voglio andare via, con te ovunque poesia, con te solo con te dimentico perché è finito. Soffia di continuo, non riesco a comandare, sentimento che stordisce, che mi rende plateale. Chiama di continuo, non lo posso più bloccare. È un amore impulsivo, dentro un'onda tutto il mare. Con te è forse follia, con te che tu sia mia, con te solo con te. Radio Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Sì, questo era il pezzo più pop, Fabio, non so se sì. Sei d'accordo. Qualcuno qualche volta si diceva il pezzo che può essere il singolo, adesso il singolo non esistono più, o meglio esistono sotto altre forme. Cioè, certo, il pezzo più pop, più accattivante, più orecchiabile. Sì. Qualcuno ha scritto che tu fai parte a larghe tese, non paroliamo Sanremo, non c'entra niente, e fai parte del cosiddetto acoustic movement inglese, cioè sì. Coldplay e King. Io t'avrei sentito più per i King che non col Coldplay, non so se sei d'accordo. Può essere probabilmente per le sonorità. Esatto, per le sonorità, parlo sempre di questo. Però tu fai la tua parte, tutti i collegamenti fanno parte di critici, tu sei un critico, però... tu fai parte avanti una tua strada, dopo i piccoli collegamenti servono per ampliare il discorso, non sì. servono altro, secondo me. Sì, poi tante volte le somiglianze vengono riscontrate più dall'ascoltatore che da esattamente chi scrive, chi si accinge a scrivere un pezzo, tante volte proprio non ha in mente nulla se non la voglia di buttare nero su bianco qualcosa, con qualche emozione vissuta. Poi ovviamente magari in superficie ci saranno sempre gli ascolti più presenti, certo. quelli più L'idea importanti. Di questo pezzo come è nata, Fabio? L'idea di questo pezzo, allora, questo pezzo in realtà si chiama Tsunami, che tanti potrebbero credere che è di cattivo gusto, no? Che è collegato a qualche evento poco piacevole successo dal 2004 mi sembra, sì, il primo certo. tsunami quel. Certo. E in realtà la canzone risale a un paio d'anni prima, 2002-2001 forse addirittura. È stata scritta a quattro mani col mio amico e chitarrista Massimiliano Pace, Maci Pace, che saluto. E lui aveva visto un documentario su National Geographic sullo tsunami, che in Giappone è un evento abbastanza regolare, cioè si tratta appunto di queste grandi onde, non è inteso non per forza in senso catastrofico, certo. distruttivo. E quindi era rimasto colpito da questo fenomeno e gli era nato questo giro sulla chitarra. Poi insieme l'abbiamo approfondito e linea melodica e testo mi sono venuti poi di getto sentendo quello che lui faceva con la chitarra, e ho cercato una leggerezza appunto che in qualche modo scagionasse l'eventualità di così. Come si costruisce un pezzo musicalmente parlando da parte tua? Cioè la linea melodica, il testo, la linea melodica, la chitarra, poi interviene il nostro produttore oppure... Ma io sono un tastierista e quindi tendo a scriverli ovviamente al piano butto sempre, diciamo, giù una serie di accordi quasi casualmente, poi dopo anche le frasi vengono casualmente e poi dopo cerco di seguire Claudio le mette a posto, le sì, amplia. Claudio poi sente il lavoro mio completo in senso di demo e a volte prende una strada differentissima dopo che passa nelle sue mani. Certo, certo, benissimo. E allora giusta il momento giusto per suonare, adesso sì. ci mettiamo un po' da posto. Salutiamo un momento la nostra redazione femminile, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che ci seguono sempre, e Alberto Pisto che organizza ed è il nostro direttore artistico. Ok, cosa ci fai sentire per aprire la finestra musicale stavolta? Allora apriamo la finestra musicale col brano che apre il disco, Pensieri in libertà. Benissimo, siamo pronti? Sì, ok. Rock Wave. L'onda del rock. Lo so, me lo dicono i miei occhi. Nessun ordine o cardine, no, lo so. Solo un uomo e i suoi tarocchi. Le parole sono aria, lo so, senza peso le respiro. Non c'è filo né telefono, no, lo so. Guarda un po' come le giro, però solo un uomo è il suo destino. Sono figlio di nuvole che dal cielo mi stanno a guardare. Figlio di quella sofficidea che cambia il colore del mare, il colore del mare. Non c'è niente da spiegare, lo so, me lo dicono i tuoi occhi. Se le carte non rispondono poi non so. Lascia che la vita tocchi, il lavoro mi divora da un po', più le prendo e più le tiro. Ti sorprende così tanto a me, no, lo so, solo un uomo è il suo destino, però guarda pure come rido. Sono padre di mille poesie che devono ancora arrivare. Padre di quella bella follia di dipingere frasi d'amore sulla tela del cuore, del cuore. c'è triste l'allegria, è un programma di magia che c'è trucco, lo vedi da te. Lascia stare, sintonizza su un altro canale. Sono figlio di nuvole che dal cielo mi stanno a guardare. Figlio di quella sofficidea che cambia il colore del mare. Sono padre di mille poesie che devono ancora arrivare. Padre di quella dolce follia di dipingere frasi d'amore sulla tela del cuore, del cuore. Pensieri in libertà. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Pensieri in libertà. Sì. Io ho scritto ieri sera, quando faccio la presentazione, sei momenti, sei schegge, non impazzite, ma mirate, di musica pop, tra virgolette. Sì. Cosa mi dici? Cosa sei, sei d'accordo su questa considerazione oppure no? No, per pensieri in libertà è... No, no, parlo nei sei momenti diversi del... Nei sei momenti diversi dell'EP è sicuramente una descrizione che mi è piaciuta, mi ha colpito, mi ci sono ritrovato. E poi anche proprio in pensieri, io ho buttato lì proprio delle istantanee, delle sensazioni e le ho messe su testo. E quindi diciamo che in qualche modo va a riassumere poi anche quello che accade nel resto dell'EP. Sì, sono tante cose diverse, per questo io avevo chiesto anche l'aiuto, come ti dicevo prima, di amici e conoscenti e parenti vari, per scegliere qualcosa, 5-6 brani che mi descrivessero il più possibile, che quindi fossero il più possibile distanti fra loro, nel mio modo ovviamente di comporre e di scrivere. Ci sono momenti più intimistici, momenti più solari, più sì, aperti. Pensieri in libertà è sicuramente quello, cioè è abbastanza sgargiante. Sì, come esattamente, abbastanza sgargiante, cioè abbastanza libero. Sì, sono, sì, sì, è fresco. È fresco, esattamente. È buttato questo lì, mentre diciamo poi dopo ci sono altre canzoni che guardano più dentro delle... E l'importanza della collaborazione, tu hai collaborato con Leandro Balsotti, anche in questo sì, disco hai collaborato con altra gente, con altre persone, sì. Che importanza ha avuto per la costruzione dei pezzi, non soltanto dei sei pezzi, tutti gli altri pezzi che hai costruito, che sono già pronti per essere pubblicati, e se saranno pubblicati, saranno pubblicati. Beh, una grande importanza a livello artistico ovviamente, per la presenza di queste personalità, e anche una gratificazione, un incoraggiamento a livello... umano e personale, perché così mi sono sentito ancora più motivato, nel senso approvato in quello che facevo, e sicuramente mi ha tolto di dosso qualche emotività di troppo, che fra l'altro no, di troppo io ne ho sempre di troppo di emotività Ma secondo me è giusto che ci sia emotività, cioè adrenalina quando uno canta, sì, e suona davanti alla gente, ci deve essere l'adrenalina, sì, sì. Sennò è freddo il discorso, non deve essere freddo, deve essere caloroso, sì, indipendentemente dai che i pezzi che tu suoni. Sì, sì, no, io tendo sempre molto ad emozionarmi, e nel bene, a volte anche nel male, ma anche il male a volte si rivela essere un bene, no? Ecco, esatto, benissimo. Dal vivo, qui siamo in versione totalmente acustica, o quasi, sì, perché c'è un po' di chitarra, un po' lisergica, posso chiamarla lisergica? Certamente. Leggermente, a me piace questo termine, forse perché sono di una certa età, musicalmente ancorato a certi schemi, ma dal vivo come li fate questi pezzi? Sempre in questa versione o un pochettino più mossi, con più pathos? Allora qui c'è una versione ridotta, della formazione della band con cui insomma porteremo in giro questo EP. Abbiamo anche una sezione, in realtà sì, è ridotta, però è anche a sé stante questa, sì, formazione. Abbiamo un quintetto con sezione ritmica di basso e batteria, e lì ovviamente diciamo c'è il lisergico, però puntiamo molto anche sull'energia, sicuramente. Certo, certo. Energia e anche cura. Tu curi molto, è stato molto curato. Questi sei pezzi sono molto curati, ben messi, ben costruiti. Non, cioè, non ci sono sbavature, secondo me. Ti ringrazio, Maurizio. Io l'ho sentito così. Non so se Claudio, tu sei il produttore artistico di tutto. Direi. Claudio poi forse può raccontare qualche aneddoto di quando gli piombavo a casa a ore tardi dicendo: Claudio, guarda che su questa nota qua non, c'è... Non capivo, c'è qualcosa che non va. Claudio, puoi avvicinarti. Sì, sì, sì. Bah, c'è da dire che arrivavano questi pezzi mezzi nudi, però già c'era una grossa polpa dove poter lavorare. E quindi il mio è stato solo un lavoro così di spalmatura, di suoni, di riempimento. Ma il grosso del lavoro era già stato fatto. Con le idee c'erano già, praticamente. Sì, sì, erano già ben presenti. Poi anche lì sta il produttore artistico sentire quale può essere il brano che più può tirare per un verso invece che per un altro, tipo la canzone di Sanremo che andremo a fare. Adesso parliamo un momento della canzone di Sanremo. Sì. Il produttore artistico che funzione ha? Fabio ti presentava qualcosa, tu sentivi se qualcosa andava bene, se era in linea su certi schemi, lo approvavi o non lo approvavi, lo tagliavi o non lo tagliavi, perché di solito taglia il produttore artistico, non taglia. Così. I pezzi erano 5. I pezzi erano 5, poi c'era questa voglia sentire che era lì, era stata buttata lì in mezzo al gruppo, ma non era definitiva, per l'EP doveva essere di 5 pezzi, sì, e non di 6. E poi il produttore discografico ha sentito questo abbozzo di voglio sentire e ha detto: questa sarà la forza trainante dell'EP. La mettiamo dentro con questi arrangiamenti, con questa forza anche per tentare di andare più in là. E infatti poi è stato tentata la strada a Sanremo con ottimi risultati, anche se poi... Ecco, com'è il discorso del tentare la strada di Sanremo? Visto che tu sei stato uno dei protagonisti, non sei arrivato fino alla fine, però ci sei arrivato vicino. Allora sì, no, tentare è già una parola quasi ottimista quando si parla di Sanremo, no? Perché sta a distanze siderali come tipo di concorso. Ma io mi sono lasciato più che altro guidare, fra l'altro appunto anche da David Bonato, che sì, è il produttore che lo salutiamo, ed è stato lui appunto a indirizzarci su Voglio Sentire, molto a fuoco come sensazione che ci ha indicato. E niente, ha detto: beh, io guarda, visto che stiamo per uscire tutto, come prassi, visto che Sanremo alle porte, ti iscriverei. E io ovviamente ho detto di sì, ma come una cosa, insomma, appunto che si fa, che si tenta e che non si tenta e poi si vedrà. Esatto, sì, no, ma nella mia... Sì, beh, chiaramente, si tenta. Non avrei mai pensato appunto che... Si deve sempre tentare, se c'è la possibilità di esatto. Fare. E poi in realtà tramite il web, tramite appunto sicuramente una promozione che è stata fatta dall'ufficio stampa e da tutto, il brano ha riscosso molti molti più consensi, soprattutto se si pensa ai 1000 che componevano i candidati per questo Sanremo, ha riscosso molto più successo di quello che si poteva immaginare, e tramite una giuria popolare web del blog ufficiale di Sanremo sono arrivato a essere secondo in questa graduatoria. Quindi quando l'ho visto lì per lì mi sono svegliato tutto d'un tratto e ho detto che non sia possibile effettivamente, esatto, a sto punto. Invece poi appunto quella è stata una grande gratificazione, e anche l'esito successivo non l'ha cancellata, ma ovviamente per accedere a Sanremo poi Ci sono tanti altri meccanismi, tanti step, e sicuramente un primo passo. Giustamente avevi detto, un primo passo è stato fatto. Sì. Si può essere un secondo passo il prossimo anno, chiaramente. Ah, si può tentare, esattamente. Ma io ci sono strade chiuse, strade sono solo aperte. No, poi io non smetto mai di sognare, quindi appunto, proviamoci ed pure. Ed è giusto che sia così. Cosa dici? Facciamo sentire un altro pezzo dell'album? Sì. Che, ti ricordi che traccia avete scelto dell'album? Ma io farei sentire proprio Voglio Sentire. Che è la traccia numero? Numero 2, ok, la traccia numero 2 di questo EP. Da farla sentire. Sì, facciamo sentire, dopo la facciamo sì, suonare. Perfetto, prima la facciamo sentire da disco. Ma molto volentieri, ok? Molto volentieri. Rock Wave, l'onda del rock. Io vivo istanti di pura euforia. Ma basta o niente, torno indietro. Io credo ancora che sia casa mia quel posto. posto dietro al vetro, mi sento in bilico. O forse in balia, non so. Io faccio presto a disfare l'allegria, con dubbi e voti contro il tempo mi sento al limite di una voragine, ma giuro ti porterò fuori pericolo. Respiro fondo dentro me, seguo l'istinto, ora basta pensare, voglio sentire il vuoto della mente, che tutto è possibile. Io non ci credo che sia la mia via, al bivio resto sempre fermo, mi sento in bilico, o forse in balia, non so. Io ti giuro romperò questo incantesimo. Respiro forte dentro me, ok, benissimo. Abbiamo sentito allora il singolo, presunto singolo che doveva andare a Sanremo. Sì. Abbiamo parlato di Sanremo, sì. Secondo te... arrivederci, sì. Michele... Salutiamo Michele, lo ringraziamo. Michele, mitico Michele. Sì. Ci vediamo mercoledì, okay. Ciao Michele, sei Agostino in regia adesso. Parlando di Sanremo, che importanza ha Sanremo ancora secondo te adesso? Ma secondo me l'importanza che ha è sempre, diciamo, legata alla storia, no? Alla storia italiana, cioè il primo grande concorso e anche, diciamo, il concorso che ha realizzato tanti sogni artistici italiani. Poi dopo è andato anche un po' perdendo di smalto, Però Sanremo alla fine tutti ne parlano male, ma alla fine è sempre seguitissimo. È talk show o è festival della canzone italiana, secondo te? Ma se talk show è talk show, dici reality. Sì, reality. Se X Factor, io metto un pari merito come importanza oggi come oggi, perché comunque bisogna guardare quelli che sono i giorni, che è il giorno d'oggi. E se invece guardiamo Amici, ma sarà che io non lo seguo e tutto quanto, ma mi sembra che sia un altro tipo di promozione, di incitamento a fare arte. Ecco, cioè, mi piace sempre quando c'è un legame, una spiegazione di quella che è stata la storia, quando sono spiegate proprio le scelte del determinato brano, l'arrangiamento, il perché di questo e di quello. 1967, mi pare, mm-hmm. un certo personaggio che si chiamava Lucio, mm-hmm. partecipò, mi pare, a Sanremo. 68, con Wilson Pickett dall'altra parte. Sì. Un'avventura. Sì. Però tu hai fatto la tesi di laurea sull'aspetto, l'altro lato di Lucio, cioè l'abbandono da Mogol. Sì. E l'arrivo a questo paroliere, questo poeta con le rime assolutamente non baciate. Sì. Pasquale Pannella. Sì, sì, sì. Come mai? Difficile, perché a me piaceva moltissimo Don Giovanni, che è un disco meraviglioso, che secondo me è un disco battistiano come Gol, anche se è stato scritto con Pannella. Sì, musicalmente diciamo ha quella ariosità, no, delle melodie. Ma come mai questa scelta di fare una tesi di laurea sul discorso pannelliano, che è molto difficile? Beh, molto prima perché io ho notato che non è stato, cioè non era stato capito, non che avessi la presunzione di spiegarlo agli italiani, visto che era una tesi di laurea che al massimo sarebbe stata in 10 copie. Però sì, volendo poteva esserci l'opportunità di pubblicarla, cosa che non ho fatto, magari lo farò più avanti ampliandola, chi lo sa. Guarda Maurizio, in realtà appunto il mio approccio battistiano a Lucio Battisti è stato proprio, cioè quello fulminante, il colpo di fulmine è stato con L'apparenza. Grandissimo pezzo. cioè l'album è uscito che io avevo 14 anni e me lo sono macinato, l'ho imparato a memoria. Per quanto fossi un grandissimo estimatore del Battisti, con il nastro rosa, andando anche a ritroso, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, mi ritorni in mente. E quel disco lì mi ha proprio invogliato a capire tutto il genio di Battisti. E quindi non mi ha neanche posto limiti, perché in genere chi arrivava dal Battisti prima, dopo il Battisti con Pannella, per qualche sua, non lo so, per qualche suo limite, o limite anche così emotivo, non riuscivo a sentirlo. Io invece arrivavo praticamente al Pannella, quindi mi sono goduto l'ultimo e il primo e saltavo dall'uno all'altro trovando continuamente riscontri, perché in realtà quello che non è stato visto è che Battisti, anche dai suoi primissimi passi, lui ha continuato a camminare fino alla fine. E tu hai detto una cosa giusta, io ti dico il perché anche. La scorsa settimana, martedì scorso, abbiamo intervistato Pietruccio Montalbetti, che era il leader dei Dick, e non soltanto il leader dei Dick, fratello, amico di fraterno di Cesare, che ha fatto la fotografia di tutte le copertine di Lucio, un'invenzione geniale per l'Italia, sì. Ed era l'amico fidato di Lucio Battisti, perché all'epoca il minestrone lo faceva la madre di Pietruccio Montalbetti, al sì. povero Lucio, povero nel senso positivo del termine, che era solo a Milano da Roma. E lui diceva che già all'epoca, quando cominciava a fare i primi pezzi, era molto avanti. Sì. Molto avanti già all'epoca. Sì. Perché Mogol ha sempre detto, prima li scrivi e poi li interpreti. Perché lui voleva poi interpretarli, sono state le discussioni a casa discografica, poi è riuscito ad imporsi, li ha interpretati anche lui. Ma era molto avanti, perché lui amava il rhythm and blues, per quello era molto avanti, già sentiva delle cose ben al di sopra di tutto lo stile dei cantautori, anche se cantautore è un termine inventato da Bindi pochi anni sì. prima. Sì, sì, assolutamente, tutto quello che ha fatto Battisti era ben oltre l'epoca. E con Pannella si è sviluppato al massimo. Sì. Beh, era il momento della musica elettronica, cioè negli anni 80 l'elettronica, quella di classifica, era anche magari appunto un po' commerciale, però c'erano dei circuiti anche di Brian Eno che arrivavano dalla fine esatto. degli anni 70 eccetera, dove le macchine cominciavano ad avere una funzione molto importante proprio nella creatività, nella scrittura, nell'influenzare la scrittura e la sonorità, e quindi questa era la strada che Battisti ha voluto intraprendere, dell'elettronica, delle tastiere, si è interessato di tutte queste cose. Ma la Salvi è già con Venezia, che era sua moglie. Sì, quello è un disco, è molto più di rottura quello. Sì, esatto. Rispetto a quelli che sono succeduti. Mm. E lo salvo e come? Perché è il disco con cui lui, in un qualche modo, ha voluto tornare visto che abbiamo parlato di Dick Dick, certo, all'epoca quasi di One Two Three, sì, sono d'accordo che con te, è stato il retro, no, delle, sì, cose, era Dolce di Giorno, Dolce, no, di Giorno, esatto, forse, sì, no, era di un'altra canzone, beh, uno dei primi, i primissimi, sì, primo giorno di primavera, credo, ecco, i primissimi pezzi che, beh, primo giorno di primavera, produzione artistica di Mogol e Battisti, sì, chiaramente, sì, sì, esatto. E lui ha voluto appunto tornare proprio agli albori della scrittura, quindi ha fatto un disco con delle melodie molto semplici, ma di una semplicità appunto così anche fatta di note ribattute, di accordi maggiori, di testi. Sì, sì, era un disco molto, molto diretto, molto... Visto che hai parlato del periodo post... Mogol, ma le copertine così scialbe, così scheletriche, Egei con un segno, cosa succederà alla ragazza, un altro segno in bianco, sì, sì. Ma era sempre il poeta che influiva su questo oppure no? Ma secondo me è sempre il genio di Battisti. Sì, anche perché c'è anche un aneddoto su Egei, su quando hanno trasferito in CD, Don Giovanni, sì, e proprio che era uscito solo su LP nel, esatto, 94. Cioè praticamente Battisti voleva che sul CD, sulla copertina, come era stato anche per l'apparenza, sì, sì, per la sposa occidentale, comparisse solo quanto ci stava del disegno originale, di quelle che erano le dimensioni originali previste per l'LP, che all'epoca era il supporto principale, e quindi per errore ne erano state stampate una roba come 200 copie, formato ridotto. Lui ha fatto ritirare tutto dal mercato. Chi c'è qualcuno ancora? Se sì, l'è, sì, io me ne sono fatta scappare una che era da Discolandia all'epoca, ancora la rimpiango, sono andato a casa a prendere i soldi, tornato non c'era più. Ritorniamo a Fabio Velo adesso, sì. Battisti l'abbiamo lasciato, è una parte importante della tua vita artistica, sì, chiaramente hai fatto una tesi di laurea bellissima, sì, spero di leggerla un giorno o l'altro, vediamo. Molto volentieri. Se avrai voglia io te la porto anche dopo. Perfetto. E allora cosa facciamo? Sentiamo qualcosa? Suoniamo qualcosa adesso? Sì, potremmo suonare, giusto per fare sentire la sua facciata più vera, voglio sentire. Ah, sì, la facciamo sentire. Scusa, la ripetizione, la facciata. No, è fatto apposta il titolo, quindi. Appunto per quello. Ok. Benissimo. Rock Wave sempre dal vivo 23:43 con Fabio Velo e la sua band diretta qui a Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Io vivo istanti di pura euforia, ma basta un niente, torno indietro. Io credo ancora che sia casa mia, quel posto dietro al vetro, mi sento in bilico, o forse in balia, non so. Io faccio presto a disfare l'allegria, con dubbi e voti contro il tempo mi sento al limite di una voragine, ma giuro ti porterò. Spiro forte dentro me, seguo l'istinto, ma sta a pensare, voglio sentire il vuoto della mente, che tutto è possibile. Io non ci credo che sia la mia via, al bivio resto sempre fermo, mi sento in bilico, o forse in balia, non so. Io ti giuro, romperò questo incantesimo. respiro a fondo dentro me, seguo l'istinto, basta pensare, voglio sentire il vuoto della mente, che tutto è possibile. Muovo le mani, i piedi e poi cos'altro dire? Siamo ma noi. Sto a aspettare, voglio sentire, sentire il vuoto della mente, che tutto è possibile. Senza più attese, solo palese voglia di vivere. Insieme il sogno, oltre lo stagno dell'inquietudine. Mi basti te, mi servi te per sopravvivere. Muovo le mani, i piedi e poi cos'altro dire? Siamo noi. Ma sta aspettare, voglio sentire, sentire il vuoto della mente, che tutto è possibile. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Ecco, è un colpo allo stomaco positivo questo inserimento della chitarra lisergica, posso dirlo qua? Assolutamente lisergica, cioè dalla melodia la spacca e la poi sì, la riprendi. È bello, sì, così, molto interessante. Ah, sì. È una mia idea, cioè, l'ho sentita così in questo momento. Sì. Sei d'accordo, Claudio? Sì, sì, bisognava spaccarla questa canzone. Esattamente, è stata spaccata letteralmente dal vivo, per poi riprenderla. Tu l'hai ripresa, vi la spaccate e tu l'hai ripresa ancora. È giusto che sia così. 23:48, adesso facciamo una piccola interruzione perché parliamo dei tre dischi da portare su un'isola deserta. Ah, perfetto. Eh no, tu pensavi di dire, no, è un'interruzione, non in quel senso là. Qua siamo sempre dal vivo. Ma solo tre? Facciamo 5, come volete voi. Dipende da ma voi. Solo 5. Non si può, non possiamo oltrepassare determinati orari. Va bene, va bene. Facciamo 3, dai. Va bene. Cominciamo dal più giovane, che lui li ha già in mente, dai. Vai. Diretta rockway.altervista.org, ci potete vedere e sentire stasera. Le telecamere inquadro le Fabio Velo Band, ok? Molto bene, grazie. Benissimo. Vai. Allora, 5 dischi miei. Facciamo 5 dischi tuoi, dai. Allora, contando che ascolto veramente di tutto, partirei innanzitutto con uno dei miei idoli, che è Pat Metheny. Sicuramente l'album Letter from Home, perché molto per me... amato anche da noi italiani. Sì, Pat Metheny, sì, molto amato. È un album, penso sia completo, che ha veramente, racchiude veramente tantissimi generi, dalla brasiliana al jazz. Esatto. E c'è anche, secondo me, molto pop. Sì, sono d'accordo, c'è anche con molto te. Pop. Poi direi Beyond the Missouri Sky, di un contrabbassista che a me piace tantissimo, che è Charlie Haddon. Non piace solo a te, anche altra gente. Okay. Poi vabbè, un disco che per molti è scontato, ma secondo me racchiude ancora tantissime cose stupende, ed è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ecco, tu, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, perché The Dark Side e non Atom Heart Mad oppure The Wall, che sono... The Dark Side, lo spartiacque, si dice, per sentire un disco dal punto di vista stereofonico, uno che prova un impianto prende The Dark Side e lo prova. Quindi generazione su generazione hanno comprato The Dark Side. Quanti anni state in classifica del Billboard? Un sacco di tempo. Tantissimi. Come mai The Dark Side? Beh, innanzitutto perché è un album che accontenta veramente tutti i gusti, credo. Cioè, sia dall'addetto ai lavori che vuole... gli elementi sperimentali, che vuole la ricerca musicale, e anche chi invece vuole avere un ascolto molto tranquillo anche in casa facendo le pulizie, per certo, dire sì. Ed è un album che mi sbalordisce sempre, ecco. Perché con eccolo qui, Moni. Con due accordi sono riusciti a fare un album strepitoso, perché alla fine si ripete sempre un giro, che è quello del Mi minore, certo, e della 7, e con questi due accordi hanno creato veramente il paradiso. E tiene col fiato sospeso dal primo brano, Breath, fino all'ultimo. Questo è il motivo per cui non mi stancherò mai di sentire Waters e Company. Sì, Waters, sì, e Gilmour. Sì, dai, sì, Gilmour, sì, Gilmour, tanto Gilmour, anche se Waters li ha scritti tutti. Sì, sì, sì. Va bene lo stesso. Poi non finisce mai il loro amore e odio, è continuo, continuo. Dopo il quarto? Il quarto, direi, beh, in un'isola deserta, Kind of Blue di Miles Davis, quello non dobbiamo può mancare. In piedi, allora. Chiaramente. Con la Ola facciamo. Facciamo, esatto, la Ola. Questo è un disco epocale, epocale per tutto. Non per soltanto tutto, per tutto, jazz. Sia perché, insomma, ha dato origine a un nuovo stile jazzistico, che è quello del modal, anche perché, voglio dire, ha delle sonorità che pochissimi sono riusciti a ricreare. D'altronde, insomma, aveva musicisti come Bill Evans o John, certo, Coltrane, che voglio un dire. Mitico doppio album. Esattamente. Mitico, esattamente. Doppio album. Mitico doppio album che ha superato, forse è stato il primo album di jazz a superare, non so, cifre iperboliche. Sì, sì, sì, è vero, è vero. E poi il quinto album, beh, qui direi un album a caso di Tommy Emmanuel. Giochiamo sul chitarrista. Sì, qui giochiamo sul chitarrista. Mi rendo conto che possa essere un musicista... la maggior parte per gli addetti ai lavori un po' di nicchia, posso un po' dirlo. Di nicchia, sì, però beh, innanzitutto io ai suoi concerti ho visto sempre tantissimi ragazzi, certo, anche famiglie, e poi perché è un musicista che ha fatto veramente di tutto, dal country al fingerstyle alle musiche più tranquille. Tecnicamente impeccabile, delle sonorità che invidio. Perfetto. Fabio, tocca a te adesso. Sì, io premetto che mi porterei le discografie. Ok, allora, i miei cinque. Allora, sicuramente Innuendo dei Queen. Come mai l'ultima parte della grande cavalcata di Freddie Mercury? Innuendo. Per l'anima che ci ha messo dentro e per quello che ha insegnato a tanti livelli, appunto, dal livello artistico al livello umano e di forza interiore, appunto, artistica. E poi perché è un album che è prodotto, realizzato e scritto in modo eccellente, ma eccellente è dir poco, cioè perfetto. Ok. E poi porterei L'apparenza di Battisti, appunto, la mia folgorazione per il mondo battistiano. Quindi battistiano, sempre nelle... dovendo sceglierne uno, io, sì, scelgo quello magari a cui emotivamente... Sì, Pannella Docet sempre in ogni caso. Non Bogol Docet, Pannella Docet. Che io lo amo, Mogol. Sì, sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo. Allora, poi vediamo come... Terzo disco porterei McCartney 1, il primo album. Bello, quello bello, quello molto bello. È un disco straordinario, quello, molto poco conosciuto in realtà, contiene delle chicche, delle cose stellari come Junk, certo, come Maybe I'm Amazed e tante altre. C'è un solo di batteria fatto da McCartney, è tutto suonato da lui, è vero. Disco. E mi dà delle emozioni grandissime. Perché molti conoscono Band on the Run, grande successo. Sì. Ma quello un po' meno. E lì siamo proprio nello sperimentare, ma lo sperimentare appunto anche con dei grandi picchi di creatività, di resa. Certo, sono d'accordo con te. Allora, poi dopo Elvis is Back. Ah, ok. Benissimo. Il suo ritorno dagli anni del militare, un grandissimo ritorno artistico. E... Elvis, se non ci fosse Elvis, tutti gli altri non ci sarebbero, secondo come me. Come ha detto John Lennon, punto. Before Elvis, where was that? Io l'ho detto ingloriosamente, l'ha detto John Lennon, però insomma, è così, c'è poco da fare. Prima Elvis, prima e poi tutti gli altri. E poi guardando ai nostri giorni direi X and Y dei Coldplay. Bel disco quello di Coldplay. Sì. È il loro terzo capitolo. In realtà, appunto, c'è chi l'ha lodato, chi invece gli ha preferito i due precedenti. Io lo ritengo eccezionale. Cosa ne pensi dell'ultimo capitolo con Brian Eno alla regia? Beh, disco più venduto della loro storia in ogni caso. Sì. Penso che sia anche quello un ottimo disco, però diciamo più un disco di ricerca, sì, che ancora di aver trovato, che fotografa qualcosa. Diciamo, probabilmente anche la collaborazione con Brian Eno andrà avanti. Lì, diciamo, hanno buttato delle pennellate, delle idee su quella che può essere l'interazione tra loro, ma non una fotografia ancora ben nitida, secondo me. Sono d'accordo con te. Ma Brian Eno, quello tocca sempre oro. Quando è partito dai Roxy Music, sì, già dava l'impostazione, non era molto d'accordo con l'altro genio che era Brian Ferry, ma lui impostava. Poi si è dedicato alla produzione degli U2 con Daniele Alua. Sì. Beh, io appunto anche gli album di Eno, il Come the Warm Jets, bellissimo, qui con Robert Fripp. Sì, sono dischi straordinari. E lui è bravo, lui cerca, trova sempre qualcosa di diverso. Sì. Posso dire, la produzione di Judas Priest, secondo me, non so, io lo trovo il più bel disco in assoluto degli U2. A mio parere, beh, sono in molti a pensare. Brian Eno e Daniele Alua è una coppiata straordinaria, secondo me. Poi Daniele Alua è un produttore incredibile, a mio parere. Ok, passiamo avanti dopo. Abbiamo finito? Sì, mi sa che li ho detti tutti e cinque. Se vuoi io continuo. No, tocca a Claudio adesso. Tocca a Claudio. Prestamene qualcuno. Tocca a Claudio adesso. Devi... Sì. Okay. Il mio primo disco in assoluto è il capitolo 3 di Peter Gabriel. Gabriel 3, bello, quello è proprio il mio preferito in assoluto. Sarà che ci ho cavalcato il militare sopra, forse. Ma ci hai cavalcato anche i Genesis con lui, allora. Beh, per forza. Se l'England Bavia Pound. Non soltanto quello. The Lamb Lies Down. Ah, quello è il massimo. È un disco di Peter Gabriel, quello. Non è un disco dei Genesis, secondo me. Lo so, infatti è la mia seconda scelta. Ah, ok. The Lamb Lies Down, Brody. È proprio un disco assolutamente di Peter Gabriel. C'è scritto Genesis, ma è tutto suo. Sì, al 100%. Sì. Difatti proprio se n'è andato. Sì, infatti. Esattamente. Anche se poi tutte le parti melodiche sono state fatte da Tony Banks, quasi tutte. Bravissimo anche quello. E poi cosa ne dici dell'inserimento, dell'arrivo di Phil Collins, che ha distrutto determinate cose, ha fatto guadagnare un sacco di soldi ai Genesis. Diciamo che hanno risollevato, ma molto hanno risollevato, le casse che erano molto vuote. È vero, verissimo questo. Anche se i primi tre dischi con lui non sono mica male. No, poi con Brian Hicks ha fatto delle cose meravigliose. Phil Collins. Infatti li ha un po' così, poi non sono stati più molto interessanti. No, devo dire. Esattamente. E poi arriviamo al numero 3, che è Anima Latina. Quello è un disco molto interessante, non capito al 100%, ma molto interessante. È il mio terzo disco, quello proprio in assoluto. E poi un altro disco, non so se molti conoscono, dei Cocteau Twins. Quale? Victoria Land, io preferisco. Ottimo. La 4AD è sempre stata un'etichetta straordinaria, quindi possiamo andare sul sicuro. Ok, me ne manca uno. Ancora uno, esatto, sì. Cosa portiamo? Mi sto inciampando su qualcosa di classico, visto che non è stato ancora detto. Qualcosa di classico. Quello che vuoi. Bah, potrei portare Remain in Light di Talking Heads. Qualcosa per di esempio. Classico. Brian, David Byrne è qualcosa di classico. Lui che ha detto che Cruise of the Mind è un disco straordinario. Aveva ragione. Ha fatto uno di recente, David Byrne, lo sai, no? Recentissimamente. Ha fatto una specie di un'opera rock con un sacco di ospiti. C'era lui che metteva le mani. E i Talking Heads hanno dato una strada a molta gente. Io ricordo 77 suoi di Talking Heads. 77, non so se ti ricordi. Adesso mi tocca lasciare lì King Crimson, però il primo album di King Crimson, corto Crimson Cream, quello abbiamo lasciato, quel volto incredibile davanti, vabbè, dai. Abbey Road, Night at the Opera, dobbiamo fare una piccola qualcosina sui King Crimson, poco da fare. The Curtain Crimson Cream è un album epocale, come l'album anche dopo, i primi tre, Island, ti ricordi? Il 9 minuti e 17 di sassofono. Mamma, incredibile. E poi Flip ne ha fatti tutti i colori, di tutti i colori, ha invitato anche Flip Tony. Chiusa la parentesi 23. E siamo alle 24, ma sogniamo ancora. Siete d'accordo? Facciamo molto d'accordo. Ok. Che facciamo, Cla? Che facciamo, dimmi. Giulio? Cambia. Facciamo come la vita. Facciamo qualcosa, cosa fate adesso? Facciamo cambia la vita. Cambia la vita, esattamente. Sono le mezzanotte e 3 minuti. Siamo a Rockway e siamo sempre in diretta con Fabio Velo e la sua band. Vai. Prova qua. È mezzanotte e zero minuti. Rock Wave, l'onda del rock. Cambia la mia vita, carta in preda al vento, come un libro oggetto di questo violento tempo e del vuoto che mi porto dentro, che è difficile colmare, che quotidianamente posso solo assecondare. Na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. E intanto cambia la mia vita, c'è la gioia e c'è il dolore, c'è la prospettiva di un futuro, c'è l'odio e c'è l'amore. E intanto cambia la mia vita, potrò mai dimenticare certe cose in fondo al cuore, o come un temporale. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. E intanto cambia la mia vita, fra le luci di questa città, elettrica cornice che mi imprigiona l'anima. Cambia la mia vita, e ora che sono giunto a metà, non ho più una meta, e quel che è dietro è per sempre là. Cambia la mia vita, potrò mai dimenticare certe cose in fondo al cuore, come un temporale. Na na na na na na na na na na na na. E intanto cambia la mia vita, non potrò mai perdonare certe cose in fondo al cuore, proprio un temporale. Intanto cambia la mia vita, non potrò mai perdonare certe cose in fondo al cuore, proprio un temporale. Radio Rock Wave, l'onda del rock. State ascoltando sempre Rock Wave, in regia c'è adesso Agostino e Fabio Velo Band, questo è importante. Una cosa molto positiva, mi intriga molto la chitarra elettrica in una sonorità abbastanza melodica, è molto interessante, un'idea decisamente che può sconvolgere nel senso positivo del termine. Ho letto sulla tua biografia che hai fatto qualcosa anche su Renato Zero. Sì, è vero. Allora, parliamo... Parliamo di quello. Ti spiego il perché. Sì. Io recentemente, 4-5 mesi fa, ho intervistato Massimo Del Papa. Sì. Che ha fatto un libro anche lui su Renato Zero. Ho scritto una recensione su quel libro, mai uscita purtroppo per problemi di spazio. Ecco, ma io ho trovato un libro molto interessante perché era al di fuori del solito discorso, sì, su Renato Zero. Parliamo del tuo libro, della tua biografia. Sì, allora, la mia biografia aveva il pregio all'epoca, quando è uscita, di essere un po', diciamo, la prima guida del mondo di Renato Zero, che discograficamente è molto vasto, molto importante e molto, appunto, molto complesso, numeroso, sì, molto complesso. Bisognava trovare, diciamo, una sorta di formula che descrivesse passo passo il suo cammino artistico e allo stesso tempo potesse essere letta anche consecutivamente. Diciamo che l'idea del libro era proprio quella: fare delle fotografie disco per disco che potevano essere lette aprendo il libro a caso oppure in un proprio contesto di racconto, cominciando dalla prima pagina arrivando fino all'ultima. E Renato Zero ovviamente aveva la mia stima più profonda per quello che ha rappresentato per la musica italiana, ma devo dire che quando mi hanno offerto di scrivere il libro io non lo conoscevo, cioè lo conoscevo molto poco, lo ti conoscevo sei documentato, per Triangolo, Mi Vendo, sì, quindi è stato un lavoro molto, molto, molto importante anche in termini di tempo. Parliamo di 2 anni circa, però, da quando mi è stato... Sì, perché ho dovuto macinare tutta la discografia e poi, tu lo e sai, poi dopo spiegarla. Certo, e tu lo sai benissimo che lui ha cominciato a fare i Cream, a suonare pezzi di Donovan. Quindi era, anche lui, come Battisti, era molto avanti. Sì. Da Hair in poi, se vogliamo citare Hair, la famosa commedia musicale. Beh, se vogliamo citare anche Orfeo 9. Anche quello, a proprio il tipo Tito Schipa Junior. Sì. Recentemente un produttore che Vannuccio, un produttore che salutiamo se all'ascolto, un produttore di Padova, ci ha portato il disco di Laniano di Tito Schipa, ti ricordi, no? Sì, ecco, altro che. Ecco, che non si trovava più all'epoca, era stato, era sparito dalla circolazione praticamente, è stato riproposto in chiave in CD e anche quello era molto avanti Tito Schipa. Ma quanto bello è, scusa, faccio una parentesi, quando c'erano queste cacce al tesoro del disco uscito di catalogo, adesso uno va sul computer, trova tutto, non c'è più proprio... giustamente tu dicevi, non c'è la passione, la bellezza, l'odore di aprire un disco, non esiste l'odore, non esiste più, è freddo, un CD è freddo, non c'ha anima. Sì, ma poi qui parliamo addirittura di file, quindi sì, figurati se ancora già peggio. CD è freddo. Ancora peggio. Quindi Renato Zero sei partito da Hair, quindi da Orfeo 9, sì, e poi è passato dalla sua discografia. Sì, e siamo appunto arrivati fino agli ultimi episodi. Mi sembra che all'epoca fosse Il Dono l'ultimo disco, sì, che poi uscito lui... quando io ho terminato, sì, la l'ultimo biografia. Disco per la Sony, poi lui ha deciso, sì, di fare un salto, sì, nell'ostacolo, anche se poi... poi è ritornato la stessa causa alla Sony, però come distribuzione, non più come management. È stata una cosa positiva secondo te, visto che l'hanno fatto anche i Radiohead, ma i Radiohead avevano un background dietro, anche Renato Zero lo ha. Sì, però... io credo di sì, primo sulla fiducia, perché Renato Zero sempre anche lui ha fatto passi molto più avanti che si sono capiti dopo. Esattamente. E poi perché effettivamente oggigiorno la discografia è talmente tirata per quello che sta succedendo con internet che probabilmente va a ledere anche un po' il mondo degli artisti e quindi sicuramente è una difesa, una salvaguardia della propria opera, della propria arte. A proposito di questo, citiamo l'etichetta del tuo disco, chiaramente. La VREC, Verona Records, distribuzione, in questo caso è stata appunto qui locale, poi dopo vedremo... Nazionale si potrà fare. Esatto, e con la Davvero Comunicazione, che è l'ufficio di management di David Bonato, esattamente. Che ha curato un po'. Che ha curato tutto quanto, sì, mi ha guidato passo passo nella realizzazione... di questo primo capitolo, che dico non sarà il primo, perché sono... non sarà il primo, ce ne saranno altri chiaramente. Ce lo auguriamo. Con le 100 canzoni che ha pronte, esatto. Ci sono sempre delle cose, altre 6-7 pezzi pronti, 10 pezzi, no? Secondo te? Ah, sì. Esattamente. A proposito di pezzi, ne sentiamo un altro da disco. Cosa dici? Noi ve ne facciamo sentire quante ne volete. Da disco? Così vi riposate, poi andiamo dal vivo. Che traccia facciamo sentire adesso? Facciamo sentire quel pezzo con Barsotti, la traccia. Sì, Giorno Nuovo, e poi ve la facciamo sentire una versione completamente diversa. Perfetto, allora la traccia numero... 5. Ok, perché la trovo molto intimista, molto bella, secondo me. Lo è. Ok. Cioè, scusa, non volevo sembrare... Lo è intimista. Il buio cessa, del tutto arreso al giorno nuovo. La luce ridà forma ed ogni colore a un mondo che sembrava perso in qualche spazio siderale, in qualche viaggio per non più tornare. L'aria è carica di energia, di istinto e di sincerità. L'aria è carica di allegria, di istinto e di serenità. E quando verrà sera, la notte non sarà più scura ma blu, e il blu non fa paura. Ed io ringrazierò per una vita intera, per questo sogno che finalmente dura. Giorno nuovo, nuovo. Giorno nuovo, nuovo. Il buio è andato via per sempre, comincia il presente. La luce allaga ancora il mio mondo, vivo dal profondo, vivo fino in fondo. L'aria è carica di energia, di istinto e di sincerità. L'aria carica di allegria, di istinto e di sincerità. E quando verrà sera, la notte non sarà più scura ma blu, e blu non fa paura. Ed io ringrazierò per una vita intera, per questo sogno che finalmente dura. Giorno nuovo, giorno nuovo, è un giorno nuovo, no, sì, è un giorno nuovo, un giorno nuovo, nuovo. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, inizia con un piano. Adesso ci devi parlare del duetto che hai fatto con Leandro Barsotti. L'idea come è nata praticamente? Sì, allora l'idea è nata a questo modo. C'era questa canzone che non era completissima ma quasi, che aveva avuto anche l'interazione, la partecipazione di un altro musicista, Nicola Sposs, che è stato l'arrangiatore di parte del brano, di quel quartetto d'archi che si sente. Cioè, esatto. E io appunto all'epoca collaboravo a tempo pieno, direi, appunto col Mattino, e Leandro era il mio responsabile, ma soprattutto un amico, cioè adesso come allora. E quindi mi sono permesso di fargli sentire questa cosa che stavo scrivendo, stavo realizzando. E lui ne è rimasto entusiasta, e ovviamente io a quel punto gli ho fatto la domanda, ho detto: ma non è che facciamo un duetto? E mi ha detto subito di sì, e per me è stato veramente un grande sogno che in qualche modo... Sul giorno nuovo vorrei vedere chi non ti diceva di sì. Beh, insomma, è un bel pezzo, indubbiamente. Sì, poi è un bel pezzo, poi è inserito non non alla fine, cioè il pezzo numero, anche se il pezzo numero 6, come hai detto giustamente te all'inizio, Claudio, non doveva esserci, cioè il giorno dopo doveva terminare il disco praticamente. E era una bella, bella conclusione, effettivamente. L'idea era giusta. E un'altra cosa, cosa ne pensi del disco nuovo che ha fatto Leandro su Gainsbourg? Esattamente. E la traduzione, Jazz nel burrone. La disco che non è stato capito ingiustamente, è un disco abbastanza interessante. È un disco, diciamo, che più che altro è nato di nicchia. Esatto, sì, molto di nicchia, sì, purtroppo. E quindi, diciamo, per quello è arrivato a pochi, probabilmente a pochi intenditori e amanti del mondo di Gainsbourg. E quello che, in cui Leandro è stato veramente bravo è stato portare in italiano dei testi che non era assolutamente facile trasportare, e mettendoci comunque, diciamo, del suo, per far capire a un italiano com'era Gainsbourg in francese. Gainsbourg è un grande musicista, tutti se lo ricordano, sì, esatto, in Italia per solo per quel pezzo là, ma non è vero, ha scritto tantissime cose interessanti. Sì, ha scritto veramente tanti, più ricordato appunto per il famoso pezzo che doveva essere fatto per Brigitte Bardot, poi è stato fatto per Jim Birkin, eccetera, tutte queste cose. Però al di là di quel pezzo famosissimo che Je t'aime moi non plus, esattamente, che ha fatto scandalo a Hit Parade, Luttazzi non poteva mettere su tutte queste robe, sì, qua, era molto, un autore molto interessante, sì, molto, molto bravo. Sì, che poi contaminava anche lui col jazz, appunto. Esattamente, cioè aveva uno spettro espressivo molto ampio. È vero. E un genio. Ma amato non solamente in Francia, ma amato anche in Inghilterra. Sì. Soprattutto certi musicisti inglesi sono molto, molto, molti tributi hanno fatto per lui. Insomma. Proprio per il fatto, appunto, che era alternativo, però riusciva ad arrivare a tutti. Non so se a tutti, diciamo, al mondo, ai francesi, arrivava a tutti, assolutamente. Io ricordo un John Cale ha fatto qualcosa. Di questo musicista francese. Sì, sì. Noi facciamo qualcosa dal vivo adesso, però. Cosa dici? Sì, 12 e 18 minuti primi, quasi. Appunto per sgravare un po' dall'importanza di questo duetto nella versione dal vivo, l'abbiamo assai trasformata a giorno nuovo. E ma è tutta, l'avete trasformata voi ed è sempre positiva, secondo me. Vediamo se vi piace anche così. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Il buio cessa, del tutto arreso al giorno nuovo. La luce ridà forma ed ogni colore a un mondo che sembrava perso in qualche spazio siderale, in qualche viaggio per non più tornare. L'aria è carica di energia, di istinto e di sincerità. L'aria è carica di allegria, di istinto e di serenità. E quando verrà sera, la notte non sarà più scura ma blu, e il blu non fa paura. Ed io ringrazierò per una vita intera, per questo giorno che finalmente dura. Giorno nuovo, giorno nuovo. Giorno nuovo, giorno nuovo. Il buio è andato via per sempre, comincia il presente. La luce allaga ancora il mio mondo, vivo dal profondo, vivo fino in fondo, fino in fondo. L'aria è carica di energia, di istinto e di sincerità. L'aria è carica di allegria, di istinto e di serenità. E quando verrà sera, la notte non sarà più scura ma blu, e il blu non fa paura. Ed io ringrazierò per una vita intera, per questo sogno che finalmente dura. Giorno nuovo, giorno nuovo, no nuovo, giorno nuovo, un giorno nuovo, un giorno nuovo, no, sì, è un giorno nuovo, un giorno nuovo, un giorno nuovo, nuovo. E quando verrà sera, la notte non sarà più scura ma blu, e il blu non fa paura. Ed io ringrazierò per una vita intera, per questo sogno che finalmente dura. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Giulio Battangelo alla chitarra solista. Buonasera, buonasera a tutti. Claudio Banzato alle tastiere e Fabio Velo alla voce. Buonasera. La band. Ok, 23 e 22, 24 e 22, abbiamo concluso questa cavalcata. È stata una cavalcata positiva, secondo me. Abbiamo descritto il tuo disco. Citiamo innanzitutto la casa discografica un'altra volta. Vurek, Verona Records. Dove si può trovare? Davvero Comunicazione. Attraverso il tuo sito? Attraverso il mio sito. Che è il tuo sito? Allora, io ho una pagina MySpace, che è myspace.com/FabioVelo. Se no, appunto, c'è il sito proprio dell'etichetta, V di Verona, rec.it o la davverocomunicazione.com. Quindi si può richiedere là, praticamente. Sì. Sì. Anche su iTunes, fra l'altro, è disponibile il CD. Quindi l'EP si chiama Voglio Sentire, sì. Dal brano Sanremese, praticamente. Sì. È stata, ripeto, una bella cavalcata. E questo pezzo l'avete fatto in modo diverso, giustamente, non poteva essere altrimenti. Una chitarra che dondolava, una tastiera delicata e la tua voce. Che ha sostituito bene il duetto con Leandro Bassotti. L'avete fatto voi, qui, dal vivo, in maniera diversa, ed è giusto che sia così. Cosa dici, Claudio? Sì. Sei d'accordo? Direi che non c'era. Non c'era di. Doveva essere così. Doveva essere. E dal vivo come lo fate senza Leandro Bassotti? Un pezzo simile? La stessa maniera praticamente. Con la band è più allargata. Beh, sì. Ma è Claudio. Sì. Noi avevamo pensato di poter assomigliare un pochino ai Massive Attack. Bello quello. Con questo drum and bass molto, molto marcato. Tu ci marciavi dentro il senso positivo. Sì. E allora. Tentiamo dal vivo questa carta qui, perché bisogna assolutamente levare quei violini che sono irripetibili, lo so. Un'orchestra vera. Lo so, quindi giri su questo versante praticamente. Sì, direi di sì. Ok, concludiamo con un altro pezzo dal vivo, grazie a Fabio Velo e alla sua band. Grazie a Maurizio. Esibizione. Grazie a voi che siete stati qua, grazie ad Agostino che ha curato adesso la regia. Grazie a tutto il nostro staff, ci vediamo anche domani, Agostino, non so con te ma con Flavio Bilato sicuramente. Grazie. Intervisteremo Ilaria Pastore e Roberta Corrieri che sono due musicisti, due cantautrici italiane delle nuove tendenze, e mercoledì avremo un altro cantautore di Bologna, si chiama Fabrizio Frapretti, si chiama, sì esattamente, verrà a suonare la sua musica dal vivo sempre a Rockaway. Concludiamo con cosa, Fabio? Concludiamo con la nostra anima rock. Viaggio, in bello, viaggio. Bellissimo, l'anima rock di Fabio Velo Band, è giusto che ci sia. Buonanotte a tutti e grazie. Rock Wave, l'onda del rock. sul volante, rallentare un po', ma fermarsi proprio no. Corro sul confine tra due opposte situazioni, mantengo la mia strada, non vedo le indicazioni. Credo nell'indecisione, questa sola direzione so seguire. Come fare? Viaggio di disillusione, un'eterna riflessione, io continuo a guidare, voglio me, voglio me, voglio lei e che sarà, voglio me di noi, voglio lei, voglio me, voglio me, voglio lei, voglio lei e che sarà, di noi, di noi, le mani sul volante e sempre più distante dalle soluzioni, da nitide visioni. Corro sul confine, non vedo le indicazioni, mantengo la mia rotta a metà fra posizioni. Credo nell'indecisione, in questa sola direzione non so seguire. Come fare? Viaggio di disillusione, un'eterna riflessione, io continuo a guidare, a guidare. Voglio me, voglio me, voglio lei e che sarà, voglio me di noi, voglio lei. Prova a pensare, voglio me ipotizzare, voglio lei. E mi fa male la testa. Na, na, na. Solo avanti posso andare, forse riesco anche a girare prima che questa partita incontro in sé sia già finita. Mani ancora salde, scende il carburante, cerco una stazione, prendo tempo alla ragione. Corro sul confine tra due opposte situazioni, mantengo la mia strada, non vedo le indicazioni. Voglio me, voglio me, non voglio lei e che sarà, voglio me di noi, voglio lei. Prova a pensare, voglio me ipotizzare, voglio lei. Non mi fa male la testa, voglio lei. Credo nell'indecisione, in questa sola direzione so seguire. Come fare? Viaggio di disillusioni, viaggio senza indicazioni, io continuo a guidare Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Io vivo istanti di pura euforia, ma basta un niente, torno indietro. Io credo ancora che sia casa mia, quel posto dietro al vetro, mi sento in bilico, o forse in balia, non so. Io faccio presto a disfare l'allegria, sento al limite di una voragine, ma giuro ti porterò fuori pericolo. Respiro fondo dentro me, seguo l'istinto, ora basta c'è. Pensare mente che tutto è possibile. Io non ci credo che sia la mia via, al bivio resto sempre fermo, mi sento in bilico, o forse in balia, non so. Io ti giuro romperò questo incantesimo. Respiro forte dentro me, se può l'istinto, ora c'è da pensare, voglio sentire il vuoto della mente, tutto è possibile. Muovo le mani, i piedi e poi cos'altro dire, siamo basta noi. Aspettare. Mezzanotte e 32 minuti.